Thank you.

当中。 等几月份呢？ 哦，西蒙的，西蒙的。 Tu sei più vecchio. Tu sei anche stato podestà a Fuscettio. C'è una persona sola che ci può consigliare, forse salvare. Gianni Schicchi. Di Gianni Schicchi, bella figliuola, vuol sentirne parlare meglio. E intendi bene. Chi l'ha chiamato? Io l'ho mandato perché speravo. È proprio il momento. Ma vado se suona il ritorno. Signore, con quel fronte, tuo stanco a lagrimare, che recita non meglio d'un cigliare. Comprendo il dolor di tanta perdita. Ne ho l'anima commossa. E la perdita è stata proprio grossa. E son cose, ma come si fa? In questo mondo una cosa si perde, una si trova, si perde posso. Pace l'eredità. Sicuro, eccoti. Ah, diseredati. Diseredati, sì, sì, diseredati. E facciamo un campo, vediamo la che buona. Thank you. Chi può essere? Maestro Spinellaccio, il dottore! Guardate che non passi! Diteli qualche cosa! Che poso è migliorato e che riposa! Maestro, Alle quale? A vittoria, vittoria! Ma non capite? No! Taglio presto, via da posto, donati, c'è un gran peggioramento, col mare testamento, portate su con voi le pene, presto messere se no pentagli. E il notaio che la stanza estrema scura del retto capitano, per il resto di cose, per la casa la mula e mulini propongo di rimetterci alla giustizia, alla destà. Rimettiamo giustizia! Come volete, datemi panni per vestirmi. Presto, presto! La casa, la mula di mulini, di 200 fiorini. Va bene. Anni, se tu mi lasci questa casa, la mula di mulini di signa, ti gonfio di quattrini. Va bene. Eccomi, no. Per lui e per i complici, per il padre. Simone, veni di fuggecchio, zitta in poteri di fine. Grazie, grazie. Appetto e dica, antimi prato. A me lei sta gerrando i beni tempoli. Alla zesca ed amarco i beni a quindole. Ora stiamo andando alla casa in mulini. Lascio la mula, quella che costa 300 fiorini, che è la migliore mula di Toscana. Al mio devo tuo amico gli arrivite. Io perché vuole chiare i chicchi? Lascio la casa di Firenze al mio caro devoto affezionato amico chiare i chicchi. A chi mi pare poi mette in testamento e giarra quello se grida tutto calmo e canter che uomo e i mulini di Signia Oddio cielo divino, affitto nel bambino gli anicchini e ti saluto con questo monterrino. La la la la la la la la, ecco tanto. Zita, di vostra corsa da bebenti fiorine ai testimoni. E cento condottani. Come sarmoso, grazie. Niente saluti. Andate. E siamo forti. Thank you.